denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Scuola, università, lavoro, ripresa dell'attività dopo la pausa estiva all'inizio di settembre. Nicoletta lo sa bene, ci guardiamo tutte le mattine in faccia, fa il paio con la ripresa a pieno ritmo della vita quotidiana dopo le vacanze in casa e al lavoro. Proprio in questi giorni c'è anche un'altra prima volta molto importante per tante famiglie, l'inserimento al nido per i più piccini. Eh sì, chi ci è passato, ci sta passando, sa che l'inserimento non è una passeggiata, pianti disperati, scene strappacuore, il momento del distacco, specie se è il primo, è difficile, ma voglio subito rincuorare le mamme, i papà all'ascolto, anche i nonni. Se il pupo piange, tranquilli, vuol dire che va tutto bene. Le lacrime, gli strilli, gli urli sono fisiologici e misurano quello che gli psicologi chiamano il livello di attaccamento. Ne parleremo tra poco con una grande esperta, la dottoressa Manuela Trinci, psicologa dell'età, psicoterapeuta infantile, psicologa dell'età evolutiva, a cui chiederemo di darci una mano. Avrà Deborah da lavorare, perché nel darci istruzioni su come accompagnare e rassicurare il pupo dovrà anche dare due dritte ai genitori, che sì, guarda, lo sappiamo bene, perché per esperienza diretta e indiretta lo sappiamo che dall'inserimento i genitori escono sempre un po' ammaccati, un po' provati, un po' pezzettini. Diamo il buongiorno allora alle nostre due prime ospiti. Una Nicoletta ne ha già preannunciata. Io saluto Tina Napoli, responsabile progetti Aria Consumatori di Cittadinanza Attiva. Dottoressa Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi. Bentornata. Bentornata anche a lei. Buona ripresa. Grazie vacanze di nuovo per l'invito. Allora, intanto, prima di salutare la dottoressa Manuela Trinci, la salutiamo subito. Dottoressa Trinci, bentornata anche a lei. Grazie. Grazie e bentrovate. Grazie. Allora, ricordiamo il nostro numero verde. Certo. 800 24 00 24, un numero verde per chi sta accompagnando i bambini all'asilo o al nido, ma per chi c'è già passato. A che ora si fa, tra l'altro? Ecco. Alle 10:30 è un orario giusto. Io sai che ormai te l'asilo e il nido li ho lasciati ormai circa, non dico quanti, però li ho fatti anch'io. Allora, iniziate a chiamarci, mandateci i vostri messaggi al 349-238-6666. Deborah naturalmente tiene sotto controllo anche le mail, siamo a vostra disposizione. Certamente. Ora basta con tutte queste stupidaggini, non voglio finire dentro un manicomio, se continuo così mi verrà un infarto. Voi non lo capite, siete ancora dei picchiatelli, mescolate lo stomaco con l'intestino, dondolate, dondolate, se al cuore gli girano i ventricoli si rischia l'infarto. Ehi voi, continuate a saltare, l'importante è che non dimentichiate di respirare. Ho visto dei bambini crollare giù stecchiti, uno diceva che diavolo ti prende, l'altro niente, ho dimenticato di respirare. Come vedete respirare è indispensabile, attenti all'infarto. Chi siete voi? Vi piace? Vi piace questa casa? Beh, come va il colesterolo? Joy finirà davvero in un manicomio. Ma che fai? Mi strappi la faccia? E tu che vuoi? Ah, lei mi strappa la faccia e tu mi dai un pugno? Non mi sono mai divertita tanto in vita mia. È quello del maestro d'asilo di scuola materna, non è certo un mestiere facile da tanti punti di vista. Allora, intanto va segnalato, molti di voi lo avranno letto dai giornali, come il tema della situazione di nidi e scuole materne oggi campeggi a tutta pagina sui quotidiani, che raccontano la vicenda degli oltre 10.000 insegnanti precari dei nidi e delle materne d'Italia che dopo 36 mesi di servizio come supplenti non possono essere assunti in via definitiva dalle amministrazioni locali e quindi rischiano tutti di restare a casa. In corso una protesta dir poco vibrante, è un'emergenza davvero complicata che sta determinando tanti presidi in tantissime città italiane. Ma tornando al tema di oggi, l'inserimento al nido, Nicoletta poco fa lo diceva, un'esperienza emotivamente duretta un po', sì, per un molte po' impegnativa mamme. Ma poi si passa, certo, adesso, voglio dire, perché appunto ci sono tante mamme che fanno fatica ad affrontare questo primo ma spesso inevitabile distacco dal proprio bambino, una prova anche davvero dura per il portafoglio, perché il costo di queste strutture, dalle pubbliche alle private, a volte è davvero proibitivo. Allora, come ogni anno in questo periodo a girare un po' il coltello nella piaga ci pensa l'Osservatorio Nazionale Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, che contiene i dati su costi, disponibilità di posti e liste d'attesa, agevolazioni tariffarie previste in tema di asili nido comunale. L'osservatorio viene diffuso nei prossimi giorni, ma noi siamo in grado oggi di anticiparne i punti salienti e il quadro delle principali appunto notizie che che questo osservatorio contiene. Un quadro stabile rispetto allo scorso anno, ma non voglio anticipare niente. Allora, oggi ci chiederemo che differenze appunto ci sono rispetto all'edizione 2014, quale fotografia possiamo scattare sul mondo dei nidi comunali, quanto costano, quanto è gravoso questo impegno per le famiglie. 800 24 00 24 è il numero verde a cui vi chiediamo di raccontarci nella vostra esperienza. Che retta pagate? Avete trovato posto? A che tipo di struttura vi siete rivolti? Siete soddisfatti della qualità del servizio che viene offerto? Molto spesso si dice che non ci sia sostanziale differenza fra pubblico e privato, che anzi a volte il pubblico offre una qualità del servizio nettamente migliore, ma insomma siete di queste idee a parità di costo? Qual è la differenziazione che potete riscontrare? 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Allora, dottoressa Napoli, ho parlato fin troppo. Cosa dice quest'anno l'osservatorio sui nidi? Quali le città più care? Che liste di attesa? Abbiamo un quadro stabile o no? Qualche anticipazione. Sicuramente abbiamo un quadro comunque che è stabile. Fra i capoluoghi di provincia noi analizziamo il costo degli asili comunque nido comunali di una famiglia tipo composta comunque da tre persone con un reddito lordo di 44.200 euro e un ISEE di quasi 20.000 euro. Questo per dare comunque qualche notizia metodologica. C'è un quadro tutto sommato comunque stabile. Stabile possiamo dire soltanto 14 capoluoghi di provincia hanno aumentato le tariffe. La tariffa media mensile per un bambino iscritto all'asilo nido comunale è di 311 euro. Questo costo incide comunque del 12% sulla spesa sostenuta ogni mese da una famiglia media italiana. Il tema che si ripropone è che varia in maniera consistente a livello regionale e provinciale. Noi ormai 10 anni che l'Osservatorio Prezzi e Tariffe comunque effettua queste ricerche segnaliamo sempre questi scostamenti considerevoli. La regione più costosa rimane la Valle d'Aosta con una tariffa di 440 euro, quella più economica la Calabria di 164 euro. A fronte della tariffa più economica della Calabria dobbiamo comunque segnalare che si riscontra un aumento del 18% in Calabria stessa. 440 euro, insomma, diciamo che se non si hanno i nonni a disposizione può diventare molto difficile far quadrare il bilancio della famiglia sostenendo il peso della retta, in particolare se poi questa è retta piena, no? E non ci sono delle riduzioni determinate da sgravi fiscali e da un ISEE favorevole, perché ricordiamo che per iscrivere un bambino al nido occorre dotarsi dell'indicatore della situazione economica della famiglia, che peraltro da quest'anno, lo ricorderete perché abbiamo dedicato diverse puntate prima delle nostre vacanze in primavera, parecchie, si calcola diversamente. Tra l'altro proprio ieri, per documentarci sul tema di oggi, mi sono imbattuta anche in diversi blog e in tante storie di mamme e papà molto arrabbiati per questo motivo, perché appunto l'ISEE ha aumentato e quindi la retta anche per il nido è diventata un po' più pesante. Un commento su questo, dottoressa Napoli? Su un commento comunque su questo, che la tariffa continua comunque a pesare in maniera estremamente comunque considerevole a fronte di, mi sento di segnalare, di agevolazioni comunque tariffarie probabilmente non sempre comunque al passo comunque con i tempi. Noi abbiamo soltanto nel 45% dei casi delle riduzioni della retta dovute a lunghe assenze o malattie comunque, o soltanto nel 19% dei casi riduzione delle rette per intervenute modifiche della situazione economica, per intenderci disoccupazione, mobilità, cassa integrazione. Noi viviamo un periodo di crisi pesantissimo ormai da quasi 8 anni, non passeggero, e non c'è stato nessun comunque adeguamento da parte dei comuni per le agevolazioni, che parlano un linguaggio diciamo del secolo scorso, per intenderci. E sono d'accordo, sono soltanto il 19% dei casi, certo, ecco. Sono totalmente d'accordo, già molte mamme e molti papà che ci stanno segnalando la loro situazione. Sì, naturalmente vogliamo invitare i nostri amici che ci stanno seguendo da casa a restare con noi, perché parleremo di differenze di costi, di differenze nel modo in cui i bambini affrontano l'inserimento. Parleremo anche di due altri problemi che preoccupano i genitori che iscrivono i bambini al nido, alla scuola materna: si ammalano di più, stanno più a casa che all'asilo, dicono i nonni, che gli mandi a fare. E poi anche il grande problema della mensa: bambini gracilini, mangeranno, mangerà tutto, mangerà poco. Restate con noi perché avremo due esperti che ci daranno delle indicazioni precise. Ma intanto, dottoressa Trinci, abbiamo parlato delle differenze sui costi dei nidi rispetto agli anni passati. Alcune differenze possiamo dobbiamo però riscontrarle anche nei nostri bambini, perché c'è chi sembra accettare la novità, altri invece mostrano apertamente in tutti i modi di non gradirle affatto. È una questione di carattere, di educazione, di ambiente oppure di età. Oggi ricordo che ci occupiamo di bambini molto piccoli che stanno facendo l'inserimento al nido, ma anche di chi varca la prima volta la soglia della scuola materna, per cui personaggini di 3 anni, dottoressa Trinci. Certo, guardi, lei, Nicoletta, ha fatto una perfetta sintesi, direi, perché le teorie più avvalorate, le teorie di oggi di cui ci avvaliamo, sono appunto quelle che mettono insieme queste componenti che lei ha descritto, ponendo ovviamente in primo piano l'età. È ovvio che ogni bambino ha una delle caratteristiche di base, cioè proprio quella che è una personalità, che è un modo di essere suo, che si va poi a coniugare con il tipo di educazione che il bambino ha trovato in famiglia, anche se si parla a nidi, si possono portare anche bambini di 9-10 mesi, per cui sì, chiaramente si parla proprio di un ambiente con il quale il bambino vive in uno stato di unione totale. Quindi sono un po' queste componenti qui che determinano le reazioni che poi il bambino stesso avrà nel momento in cui viene inserito al nido. Teniamo conto che nei servizi educativi, io li chiamerei così proprio, no? Il nido fa parte dei servizi educativi, che nei servizi educativi il personale, gli educatori che sono lì preposti sono tutti attrezzati, nel senso che il bambino non è che viene preso e messo dentro la struttura, ci sono dei tempi anche lunghi talora di accompagnamento, tant'è che i genitori o il babbo o la mamma, ovviamente più frequentemente direi la mamma, prendono dei permessi al lavoro, hanno diritto anche ad avere dei permessi al lavoro per fare il cosiddetto, il così chiamato inserimento. E lì si vanno a valutare proprio insieme, questo io lo porrei proprio, guardi, come base per tutte anche le problematiche che lei ha già illustrato e che poi fanno parte di chi vive quotidianamente il lavoro nel nido: quanto mangia il bambino, ha fatto la cacca, parla, impara, eccetera, eccetera. L'importante è che genitori e educatori abbiano un rapporto di scambio reciproco, perché appunto la struttura educativa non è un parcheggio, e questo i genitori lo sanno benissimo, e quindi è nella collaborazione, nel creare proprio la classica rete attorno al bambino. I nonni spesso vengono a prenderli, riportano e quindi raccontano, ecco, avere comunque una visione che non sia una visione parcellizzata. Dottoressa Trinci, lei ha sottolineato un aspetto fondamentale, il rapporto anche con le maestre. Invitiamo i nostri ascoltatori da casa a raccontarci come hanno cercato, no, di relazionarsi con queste figure così importanti. Ci sono, leggevo, dei genitori che si lamentano, altre mamme che si mettono un po' in competizione con le maestre. Insomma, bisogna cercare di andare d'accordo, ma naturalmente ci sono anche dei passi di avvicinamento da fare. Ditemi se le state facendo anche voi. A proposito di passi, sono le 10:45. Esattamente, quindi siamo pronti per andare a sentire cosa succede sulle strade italiane, ma devo dire che stanno già bussando alla nostra porta molti ascoltatori che non vedevano l'ora di condividere con noi la loro esperienza di questo inserimento. Sono pronti Maria da Padova, un altro aspetto ce lo sottolineerà tra poco anche Paolo da Milano, ma abbiate pazienza, facciamo tutto questo dopo il traffico. Cuore e denari. Ma sai che Daniele non ha mai avuto una babysitter? No? Perché? Perché noi tutti questi anni sempre siamo rimasti con lui. Sempre? Sei mai usciti? Mai. E allora ci siamo letti tutto. Abbiamo letto von Kleist, Hegel, Spinoza, Federico Tozzi. Abbiamo letto Senofonte, tutto Senofonte. E poi abbiamo Erodoto. Tutto Tacito. Tacito tutto. E riprendiamo a parlare del momento delicato che è quello dell'inserimento all'asilo nido, alla scuola materna. Con noi ci sono la dottoressa Trinci, psicoterapeuta dell'infanzia, e Tina Napoli, responsabile dei progetti Area Consumatori di Cittadinanza Attiva. Ma Deborah aveva già salutato due ascoltatori che sono venuti nel nostro salottino del mattino. Maria da Padova, benvenuta. Allora si accomodi. Grazie. Naturalmente, e ci racconti un po' questo inserimento, come sta avvenendo oggi, primissimo giorno per voi. Sì, primissimo giorno, siamo tutti molto emozionati, veramente emozionatissimi, non abbiamo dormito la notte. Addirittura. La bimba sicuramente non ha dormito, prima volta in molti anni ormai di sogni beati, e niente, è stata un'aspettativa altissima perché ha passato un'estate con me e la sorellina piccola e voleva assolutamente andare alla scuola materna, non so, poteva più di stare a casa con noi, insomma. Ecco. Sento che ci sono dei grandi sorrisi, Maria, quindi tutto bene. L'aspetto economico non è doloroso quantomeno. Allora, l'aspetto economico è doloroso, però oggi non ci pensiamo perché non si è parlato di resto e per fortuna si parlerà domani. Quindi oggi ci sono solamente sorrisi, per fortuna. Quindi la sua bambina ha una sorella più grande, quindi voleva, o più piccola? Più piccola, voleva andare alla scuola materna. Il primo giorno non ha dato nessun problema, è filato liscio. Diciamo che il problema c'è stato nel momento in cui ho lasciato la piccola a casa, perché di solito noi pensiamo che l'inserimento sia mamma-bambino che va, non è vero, c'è anche il fratello, che è molto importante come figura, non immaginavo, quindi ho dovuto mettermi la piccolina sullo zaino e portarmi anche lei, praticamente, quindi abbiamo fatto una cosa a tre. Un inserimento collettivo. Dottoressa Trinci, perché ci sono anche i fratelli, ha fatto bene Maria a portarsi la piccina per accompagnare la grande al primo giorno? 10 e lode. 10 e lode, brava. Bravissima, perché questo in effetti è uno dei punti. Cioè, io credo che l'inserimento, a parte che è fantastico la bimba, no? Quello che racconta appunto la mamma lì in trasmissione, che denota proprio questo piacere nel crescere. E questo direi che è un punto che quando si fanno gli inserimenti o i passaggi, come in questo caso da un nido a una materna, vanno tenuti di conto. Cioè il desiderio normale, naturale, del bambino di crescere, quindi di fare e di dimostrare anche come è diventato più grande a tutta la famiglia. Dall'altro lato, siccome le crescite, io le chiamo traballanti perché chiaramente sono piccoli, quindi vanno verso l'autonomia ma sono ancora lontani dall'esserlo, risentono continuamente di spinte di ritornare a casa con la mamma, quindi la presenza del fratellino a casa con la mamma magari, diciamo, è disturbante. Perché la bambina che va alla scuola dell'infanzia si chiede, che cosa si domanda, che cosa sta succedendo a casa quando lei non c'è. Cosa sta facendo l'usurpatore? Perché, perché dice adesso questa va, mi accompagna, poi sta dalla mamma. Abbiamo Paolo da Milano? Certamente. Che ci fa tornare sui temi di denari. Esatto, Paolo, benvenuto. Buongiorno. Paolo. Buongiorno, mi sente? Eccolo qua, sì. Sì, io esco adesso dal colloquio conoscitivo con la maestra di mia figlia. Inizierà settimana prossima, tutto molto bello, ci è piaciuto. Però nel discorso introduttivo ci ha detto di portare entro un mese il modulo ISE. Noi, il nostro comune ha un asilo comunale che è troppo piccolo per soddisfare tutta l'utenza. Quindi c'è una scuola parrocchiale, scuola per l'infanzia parrocchiale, che riceve un sussidio dal comune. E quindi adesso sappiamo quanto paghiamo quest'anno, l'anno prossimo invece si baserà sull'ISE, quindi sarà la sorpresa per l'anno prossimo. E speriamo che ci vada bene, insomma. Esatto, non ha potuto già quantificare l'ammontare di questa sorpresa, Paolo. No, perché sarà proprio sorpresa... da 10 minuti fa sono uscito, quindi vedremo. Infatti. Grazie Paolo per la sua testimonianza, una situazione nella quale probabilmente si troveranno molte famiglie. Dottoressa Napoli, appunto, siamo ritornati sugli aspetti di denari, no? Tra l'altro il vostro monitoraggio, di cui ci ha raccontato, ci ha anticipato qualche cosa prima, perché ricordo verrà diffuso pubblicamente venerdì. Abbiamo ribadito le differenze fra città e città italiane, ma da che cosa dipendono le differenze di prezzo fra un nido e un altro? Dalla qualità delle strutture, dallo stato di salute delle casse dei comuni? Tra l'altro, proprio in questi ultimi anni, nonostante il palese calo della natalità, è stato possibile assistere anche ad una crescita esponenziale del numero degli asili nido privati, no? E questo perché le strutture comunali non sono comunque in grado di soddisfare tutte le richieste che arrivano, esattamente come è successo a Paolo da Milano. Quindi le differenze di prezzo, a che cosa le riconduciamo? Sì, un dato prima sull'accesso comunque ai servizi educativi nella fascia dei bambini da 0 a 2 anni, che rimane ancora comunque bassissimo, soltanto l'11,9% dei bambini usufruisce comunque del servizio, siamo molto lontani dagli standard del Consiglio Europeo di Barcellona, che indicavano comunque il 33%. Da cosa dipende comunque di questa differenza? Innanzitutto ci sono alcuni asili nido che permettono comunque di pranzare comunque in loco, altri asili chiedono comunque alle famiglie di portare il cibo da casa e alcuni organizzano... Io ero rimasta solamente alla carta igienica e poco altro, persino il pranzo da casa in certi casi. Ci sono comunque anche delle situazioni comunque di questo tipo e sicuramente tutto quello che riguarda dopo i pannolini, il cambio dei bambini, per cui in alcuni casi si chiede di portare qualcosa, in altri molto dopo dipende dalle scelte politiche delle amministrazioni comunali e dalle casse vuote comunque dei nostri comuni, certo, in cui versano, per cui su quello il futuro probabilmente sarà visto l'ampio numero comunque di servizi dati comunque in outsourcing di segmenti di servizio, sarà quello sempre di più di incentivare asili nido aziendali oppure degli spazi comunque all'interno degli spazi co-working delle zone comunque per, certo, i bambini. Si inizia sempre di più a riflettere, a pensare, a leggere di situazioni che sono comunque alternative anche in un contesto lavorativo che è cambiato come tipologia di lavoro, come orari, non più quello comunque tradizionale, perché ci tengo comunque a ricordare ci sono ancora capoluoghi di provincia importanti, soprattutto del sud, che garantiscono soltanto un orario di 8 di 6 ore, mm-hmm, per cui poco funzionale. Così come in tante zone d'Italia, pochissime per la verità, addirittura sta sorgendo anche dei servizi che sono disponibili anche per i genitori che fanno i turni di notte, però davvero sono molto, sì, pochi, molto e pochi, anche addirittura contestati per il fatto che si lascia il bambino appunto nelle notturne. Sì. Dai, strani, ma insomma, vabbè, altro dibattito. Dottoressa Trinci, a proposito di nido, sarebbe bello che il nido non fosse una necessità ma un'opportunità, no? Ma in ogni caso, c'è un'età giusta per iscrivere il bambino al nido? A partire da... Dottoressa, sente. Trinci? Sì, mi sente? Sì, io la sento, ma sento anche la musichina, sono le 10.55. Ecco, allora, noi facciamo una piccola pausa, naturalmente passiamo subito il timone a Deborah. Intanto c'è un'età giusta per iscrivere il bambino al nido, parleremo anche poi del rischio dei bambini che frequentano le comunità ad ammalarsi e naturalmente anche di pappe. A tra poco. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Cuore e denari. I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un dolcino. Ci vuole lo stiro. Ci vuole un dolcino. Ci vuole lo stiro. Dice che è stata una disattenzione. E siamo di nuovo insieme, dottoressa Trinci. Torniamo all'asilo nido, alla domandona prima della nostra pausa. C'è un'età consigliata? Guardi, diceva Eugenio Montale che l'età è il più vile degli inganni. E quindi credo che ci possiamo rifare alle parole del poeta per cercare di capire come un bambino di 8 mesi X è ben di... La dottoressa Trinci, ce la siamo persa. Questa risposta non riusciamo proprio a poterla sentire. Abbiamo tutta. Sentito la parola del poeta, ma poi la dottoressa Trinci è sparita, ma noi la recupereremo. Certamente. Intanto vogliamo sapere da voi a che età avete fatto l'inserimento al nido e se avete avuto anche voi nonni che hanno cercato in qualche modo di dissuadervi, ma cosa lo iscrivi a fare, ma poi si ammala, perché parleremo naturalmente anche di questo. Poi però se glielo piazzi tutto il giorno lì non si lamentano vogliono. Anche di quello. Ecco, anche perché poi lavorare, insomma, si deve andare a lavorare. Esatto. E dottoressa Trinci, l'ho recuperata? Recuperata. Mamma credo. Mia, grazie, eccola qua. Grazie, scusate. No, dunque si diceva dell'età. Ecco, dicevo che ogni bambino, e questo mi sembra anche un pochino dirlo banale, no? È diverso. Quindi davvero si tratta di capire per un bambino qual è anche lo stato in cui si trova in quel momento. Fermo rimanendo, che di questo sono profondamente convinta, l'inserimento di un bambino in una struttura struttura educativa, anche piccolo, anche un bambino piccolo, si parla quindi di bambini al di sotto dell'anno, ha comunque dei vantaggi per il bambino, da un punto di vista emotivo, nonché cognitivo, perché chiaramente ben difficilmente in una famiglia, anche la più attrezzata, il bambino avrà le stesse stimolazioni, le stesse opportunità proprio, no? Di gioco, perché si impara giocando e si impara non solo cognitivamente, ma si impara emotivamente. C'è un superato libro edito da Cortina, mi pare 6 o 7 anni fa, sull'amicizia, dove dei colleghi americani fanno proprio vedere come bambini anche piccolissimi cominciano proprio 8, 9, 10 mesi a entrare in relazione con l'altro. È una grande lezione per i bambini. Per insomma, capire... è una bella palestra, sia l'asilo nido, sia la scuola materna. Certo. Dottoressa Trinci, lei ha citato l'America, l'Accademia Americana di Pediatria, certo, proprio in questi certo giorni, è oggi sui giornali, ha fatto delle linee guida, no, per l'alimentazione dei bambini. È curioso che dobbiamo imparare dagli americani, ma comunque, ah, sì, insomma, no, questa è una battuta allora, un po' sciocca. Allora, visto che me la offri senso, sul piatto d'argento, ti racconto l'esperienza della mia amica Manuela, che ho incontrato a San Diego, ha fatto l'inserimento in materna di ieri di suo figlio. $1,000 al mese per 4 ore al mattino, dalle 8 alle 12. Vogliamo parlare di quella retta là? E la carta igienica non la porta, no? No, non l'ho chiesto, ma chiederò. Ecco. Allora, dottoressa Trinci, ma lei ha suggerito l'iscrizione al nido o alla scuola materna quasi come terapia, anche quando magari la mamma era a casa, c'erano i nonni a disposizione? Ma sì, non come terapia. Tra virgolette, naturalmente, comunque, guardi, un po' per fare bene al bambino. Certo, anche per i bambini diversamente abili, oggigiorno si fa proprio dei grandi tentativi attraverso educatori di sostegno, perché possano anche loro viversi questa esperienza di una scuola dell'infanzia, anche perché l'atteggiamento che hanno gli educatori nei confronti dei bambini è un atteggiamento che favorisce degli attaccamenti, pronto? Sì, sì. Ecco, no, perché questo sento ogni tanto dei vuoti, che favorisce nei bambini un attaccamento, un ripristino anche di attaccamenti che non sono andati perfettamente. Quindi oggigiorno anche la psicoanalisi ha più difficoltà a parlare, guardi, di attaccamento solo alla figura materna, perché i bambini si rapportano con tante figure, anche bambini, faccio per dire, che stanno a casa, che hanno una colf, quindi tanti modi di pensare, tanti modelli diversi che attrezzano i bambini a vivere in società, in culture che non sono più quelle semplicemente di 7-8 anni fa, perché anche il fatto a un nido con bambini, mettiamo, di un anno e mezzo, due, dove bambini si ritrovano con culture differenti, dove si mangia in maniera diversa, si prega in maniera diversa, ci si rapporta con le figure di attaccamento, la mamma, il babbo, i nonni, in maniera diversa. Cioè, movimenta la vita mentale di un bambino. Assolutamente, è un nutrimento straordinario. Certo. Allora, 800 24 00 24, voi intanto continuate a chiamarci con i vostri interventi. State vivendo il passaggio delicato del distacco per l'inserimento a scuola o al nido del vostro piccolo? Come sta andando? Giuseppe da Pavia ci racconta che lo ha fatto stamattina, il suo piccolo ha 2 anni. Dal punto di vista dei prezzi, delle complicazioni burocratiche, delle procedure, c'è qualche aspetto che volete sottolineare? Fatelo naturalmente al numero verde, ma anche al numero per gli sms 349 238 6666. Dottoressa Napoli, cittadinanza attiva, allora riprendiamo da lei. Come sono messi i comuni italiani in fatto di agevolazioni tariffarie alle famiglie per cercare di alleggerire un po' il peso di queste rette mensili, che in certi casi sono davvero notevoli, oltre i 400 euro al mese per la Valle d'Aosta, la più economica, la regione più economica, la Calabria, l'abbiamo raccontato, 164 euro, sono comunque sempre cifre medie e dati bilanci attuali delle famiglie italiane sono comunque sempre delle belle cifre, perché poi c'è tutto il resto anche da sostenere per mandare il bimbo al nido o alla materna. Ecco, le agevolazioni, vedo dai vostri rapporti che sono presenti solo nel 56% dei casi osservati in termini di comune. In che cosa consistono? Sì, entro nel dettaglio rispetto a quello che accennavo prima. Innanzitutto sottolineiamo che soltanto nel 56% comunque dei casi, più o meno soltanto poco più della metà dei capoluoghi di provincia, per cui la metà non prevede agevolazioni tariffarie. C'è una riduzione della retta a partire dal secondo figlio frequentante, nel 62% dei casi. Una riduzione della retta per assenze dovute a malattie soltanto nel 45% dei casi. Una riduzione della retta, come già dato prima ho sottolineato, per modifica della situazione economica, per perdita di lavoro, mobilità, casa integrazione, nel 19% dei casi, del 56% di sottolineo. C'è un 15% di agevolazioni per i bimbi che sono dei portatori di handicap e una riduzione della retta, e questa ecco, la sottolineo con ancora più, chiedo comunque di sottolinearla con attenzione, una riduzione della retta in presenza di un mutuo per l'acquisto della prima casa soltanto nel 3% dei casi. Tutto questo perché sottolineare questa ultima comunque agevolazione? Perché si parla in Italia, ci sono dei dati sulla scarsa comunque natalità, c'è uno dei paesi comunque che fa meno figli perché ci sono probabilmente meno servizi, per tanti comunque motivi. E uno degli ostacoli, soprattutto nella città, nel decidere di fare una famiglia, di fare dei figli, sono comunque i costi. Noi abbiamo realizzato una ricerca qualche anno fa col Forum Anio Consumatori, dove seguivamo l'iter di una coppia, la stessa famiglia tipo, e andavamo un po' a esplodere comunque alcuni costi, l'impatto economico, l'acquisto della prima casa. Sappiamo quant'è impattante economicamente e non c'è nessun tipo di agevolazione per chi decide anche di avere un figlio e si trova anche a pagare rette di asili nido comunali di 440. Stavo facendo un calcolo mentale, dottoressa Napoli. La donna di denari aveva già attivato. Tra il mutuo e la retta è uno stipendio che se ne va e poi con un altro stipendio, se si ha la fortuna di lavorare in due in una famiglia, si può riuscire a fare tutto il resto. Per cui magari ecco qualche volta andiamo anche un po' a chiedere, a sfrucugliare il nostro comune per capire se ha anche qualche iniziativa, perché qualche volta neanche si conoscono, per cui è bene anche attivarsi, vero, ed informarsi. E dico ancora comunque di più, anche associazioni come quella che io rappresento probabilmente devono attivarsi per fare un'attività di richiesta, di lobby su questo. Adesso diciamo le nuove frontiere anche di rappresentanza, di tutela del consumatore e del cittadino vanno anche comunque in questa direzione. Allora, intanto volevo mandare un bacio affettuoso a Giacomo da Como, non so se hai visto il messaggio, Nicoletta. È quello che ti segnalava, sono riuscita a catturare il tuo sguardo. Te lo lascio leggere allora. Sono papà di tre bimbi, di cui due disabili, l'aver inserito al nido i miei figli mi ha cambiato la vita. Salutiamo Giacomo e un abbraccio a tutti. Allora, i esatto, peraltro la situazione dei costi, volevo solo ricordare, ma certamente le famiglie lo sanno, sta portando molti nuclei familiari ad organizzarsi in iniziative di autosostegno. Ci sono le Tagesmutter, ci sono le babysitter di condominio, gli esempi sono tantissimi, però anche qua poi stiamo attenti perché non è che questo può diventare un mondo senza disciplina, un'altra giungla, no? Solamente magari per risparmiare 50 euro al mese, che sono tanti, ma non è che neanche si possono consegnare questi bambini in strutture che sono prive di certificazione e controlli adeguati. Dottoressa Trinci, io volevo chiedere a lei di dare ai genitori all'ascolto, ai nonni anche, magari qualche raccomandazione e rassicurazione. Sicuramente in questa prima parte della trasmissione abbiamo sottolineato quanto l'esperienza al nido e alla scuola materna possa rappresentare uno stimolo anche per i bambini e devo dire anche un po' una palestra per le mamme, soprattutto quando nel momento della scelta e nei primi approcci con le insegnanti e poi per costruire quel rapporto che è fondamentale, che caratterizzerà poi tutto il percorso del bambino. Dottoressa Trinci, che cosa vogliamo raccomandare, come tranquillizzare magari qualche genitore un po' ansioso sul momento del distacco, perché vede che magari anche il bambino, non solamente a scuola ma a casa, mostra alcuni segnali del suo disagio, torna a fare pipì a letto, più aggressivo con i fratellini, mette più il muso, fa i capricci. Dottoressa Trinci. Certo, proviamo a integrare per prima cosa cuori e denari. Allora, direi che i genitori quando vanno a scegliersi il luogo dove sarà il loro bambino, dovranno chiedere ovviamente agli educatori che tipo di garanzie offre il luogo, e questo è molto importante, non per esacerbare i fattori di rischio, per carità, però è importante che sapere che tipo di struttura è, se non è una struttura pubblica, che tipo di convenzionamento ha, se è un convenzionamento, di, ce ne sono di molti tipi. Ecco, quindi accertarsi questo. Vedi che la dottoressa Trinci vuole diventare un po' una ospite tua, eh? Ha buttato lì la mezzo. D'altronde sono irresistibile, la capisco. Tina Napoli, si prepari con una domanda, con un commento di cuore, eh? Tanto gliela butto anch'io. Va bene. Perché sennò qua. Allora, dottoressa Trinci, quindi? Nei comuni più illuminati, io sono consulente in questa direzione per diversi comuni, si vanno a integrare oggigiorno, ripeto, le scuole di formazione, i gruppi di formazione per gli educatori sia che lavorano nel pubblico sia che lavorano nel privato. Questo per garantire ai piccoli utenti e alle loro famiglie il più possibile una omogeneità della formazione stessa. Quindi questo è importante per rassicurare dentro, da un punto di vista anche formale, i genitori. Quelle che sono le componenti emotive dei genitori, io credo che un pochino il gioco lo dirigano gli educatori, perché se un educatore è fermo, se un educatore è un educatore che riesce a stabilire una distanza affettuosa dai genitori e dal bambino, quindi senza distanza troppo, affettuosa. È una distanza affettuosa, sì, può sembrare un paradosso. No. Però mi sembra renda l'idea, perché chiaramente, come già lei, Nicoletta, faceva notare all'inizio, quando una mamma lascia per la prima volta un bambino di un anno e due mesi, la prima domanda che viene è questa: non vorrà mica più bene alla tata che non a me? Ecco, quindi questo è enorme. Il cuore di mamma. Se l'avete pensato, siete assolutamente normali, non siete marziane. Certo. No, però stavo pensando anche alla discussione da cui siamo partiti, che campeggia oggi sui giornali, il fatto che questi precari delle materne e dei nidi potranno non essere stabilizzati, no? Perché dopo 36 mesi di servizio appunto non hanno diritto ad un'assunzione a tempo pieno, o comunque avrebbero diritto a farlo, ma i comuni non hanno i soldi appunto per poter stabilizzare queste persone. Immaginate anche per tutte quelle insegnanti che si sono affezionate magari in un percorso di lungo periodo con tanti bambini e con tante famiglie, e adesso tante scuole ricominciano da zero con i nuovi insegnanti. Anche i bambini devono quindi ricominciare. Un bel problema anche da questo punto di vista. E allora, che cosa facciamo? Dunque, tantissimi messaggi, Nicoletta. C'era questo SMS che pure era piaciuto ad entrambe. Ce lo scrive Monica e racconta dell'esperienza che si è verificata in casa sua. Sua mamma si era molto offesa per aver portato la prima bambina al nido, lei che l'aveva cresciuta dal primo giorno, perché come partita IVA Monica è dovuta tornare subito al lavoro. Diceva che al nido ci andavano i bambini che non avevano i nonni. Dopo il primo anno di nido, dopo aver partecipato alla festa della scuola, dove ha potuto vedere con i suoi occhi l'ambiente colorato, pulito e pieno di materiale didattico per la quale la piccola impazziva, è diventata una piena sostenitrice dei nido, ammettendo che i bimbi ricevono già una prima e stimolante istruzione che li rende anche molto indipendenti. Più o meno nella stessa linea su Facebook ci scrive Barbara, ci racconta che spende 250 per la primavera, 160 per la materna, ma c'è personale qualificato, e poi c'è anche un mondo di volontariato che è molto attivo anche attorno al, appunto al settore dei nidi e delle materne. Continuate a chiamarci 800 24 00 24, continuate a scriverci, parleremo naturalmente anche di mensa, di alimentazione, l'abbiamo accennato, aspettiamo la nostra esperta, e parleremo anche di malattie infettive. I bambini vanno al nido, si ammalano di più, forse così diceva anche la mamma di Monica quando cercava di non mandare la nipote al nido, cosa lo mandi a fare che poi sta più a casa che al nido. 800 24 00 24 per tutti i vostri dubbi. Sì, l'ultima domanda volevo farla a Tina Napoli, che tra un po' ci deve lasciare, poi torneremo comunque sul tema economico-burocratico legato all'organizzazione dei nidi e delle scuole materne. Tina Napoli, ce lo vuole dare qualche consiglio per chi ha avuto da poco un bambino, un neonato, e magari dovrà fare l'inserimento l'anno prossimo? Quanto tempo prima dobbiamo pensarci per organizzarci al meglio? Sicuramente il consiglio che possiamo dare, innanzitutto già nei primissimi mesi comunque di gravidanza, iniziare comunque a scegliere l'alternativa comunque migliore, informarsi per le liste d'attesa, avere sicuramente comunque un ISEE, perché il 93% delle rette sono calcolate sulla base comunque dell'ISEE, ovviamente si paga il costo comunque totale. sicuramente quello che chiediamo, per dare una risposta di cuore come mi sollecitava, è quello di conoscere comunque la struttura, diciamo, che dal punto di vista di un'associazione di consumatori, diciamo, andare a chiedere se c'è una carta di servizi, che servizi vengono erogati. Mi è piaciuto molto quello che è stato detto di una realtà all'interno del quale c'è un tessuto associativo comunque al parallelo, comunque, per cui che dove si vive anche un senso di comunità comunque, perché dopo molte volte anche la richiesta di usufruire di servizi alternativi quali il tax mute e il babysitter di condominio soddisfano sicuramente una esigenza comunque di abbattimento di costi, di definizione del servizio quasi personalizzato, ma anche c'è quella richiesta di relazione comunque, di comunità, per cui in parallelo comunque soddisfare questa esigenza all'interno di casi lavoro comunale, privato, comunque altro, e avere una consapevolezza degli standard di qualità e dei costi non può che far fare un salto a tutto il settore comunque. Grazie a voi. Grazie a Tina Napoli per essere stata con noi. Dottoressa Trinci, lei si ferma o deve andare? Io non ho capito. come desiderate voi. Ma si una, ferma. Così, Nicoletta, sì. Però mi premeva una cosa rispetto alle rassicurazioni per i genitori, al nido rispetto al precariato. Ecco, mi ricordo che al nido della Bicocca, proprio lì a Milano, la Susanna Mantovani ai genitori che protestavano giustamente dal loro punto di vista e anche un po' ingenuamente per il cambio di alcune educatrici, mi sembra che detto una risposta molto importante, che noi possiamo garantire un servizio, quindi possiamo garantire che il servizio ci sia, ma non possiamo garantire, perché non è il nostro compito, che rimangano gli stessi educatori. L'importante è una continuità educativa che il bambino può trovare oltre e al di là dell'educatore stesso, che in una parte è fatta sicuramente dall'educatore, però se la struttura è dotata di validi educatori e di validi spazi, ecco, la continuità per il bambino è garantita. Ecco, questo rassicura anche un po' i genitori. Certamente. Allora, qua adesso dunque abbiamo fra 3 minuti l'appuntamento con i mercati, quindi direi di continuare nel proseguimento dell'ascolto delle testimonianze che ci stanno arrivando. E abbiamo naturalmente le mamme che ci chiamano. Esattamente. Allora cominciamo con anche qua 2 milanesi. Paola, benvenuta. Buongiorno a tutti. Paola, grazie per aver chiamato. Buongiorno a lei. Grazie a voi. Io sono mamma di 2 gemelle di 2 anni e 9 mesi, Vittoria e Ludovica, e vi porto una testimonianza positiva, perché nonostante avessi la fortuna di avere una tata, ho deciso a 2 anni di inserirle nella sezione primavera. È stata un'esperienza assolutamente positiva, perché anche commovente, mi piace anche citare questo, perché ho visto fare alle mie bambine un'esperienza che sicuramente non avrebbero potuto fare a casa, con la migliore tata e anche con i genitori più attenti del mondo, come noi cerchiamo di essere anche con le imperfezioni del caso, comunque l'esperienza che si fa in una comunità è diversa, e quindi io sono molto soddisfatta. È vero che ci si ammala di più, però personalmente ritengo che ne valga la pena e che sia davvero un'opportunità oltre che una necessità per tanti. Quindi mamme all'ascolto, rincuoratevi, e sentiamo anche il contributo di Anna che ci chiama da Milano. No, tra l'altro Paola, cioè, aveva anche anticipato alle nostre colleghe del centralino che le bambine le ha separate, anche qua poi c'è un altro dibattito fra chi sceglie di farlo, di non farlo, dipende immagino un po' dall'attaccamento. Ma noi abbiamo la dottoressa Trinci a cui gireremo sicuramente la domanda. Sentiamo Anna, buongiorno da Milano. Buongiorno, io mio figlio ormai è grande, per cui parlo di un'esperienza, io ero figlio unico, da sola, non avevo i nonni, però mi sono trovata contentissima perché ero lontano comunque dalle famiglie. E niente, io mi sono trovata benissimo, la rifarei. Certo, il costo è alto perché ho dovuto mandarlo in 2 nidi privati, ma mi sono trovata benissimo. Il bambino non voleva neanche tornare a casa, perché a casa poi significava stare in un monologale molto piccolo e senza gli amichetti con cui giocare. Per cui vabbè, ci si ammala di più, ma proprio dopo non ci si ammala più. Bisogna farsi gli anticorpi, sento sempre questo detto, no? Lo chiederemo alla nostra esperta tra poco, ma qua ci sono, se vuoi, 40 secondi ancora per un primo spunto. Intanto salutiamo la nostra prossima esperta, che è la dottoressa Lucilla Titta. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, Deborah. Ricercatrice e nutrizionista del progetto Smart Food, promosso dall'OIEO e naturalmente colonna del nostro Reality Expo, ha seguito tutti i piccoli nel nostro reality. Dottoressa Titta, le mamme sono preoccupate perché poi il bambino all'asilo mangia, non mangia, e poi come fare a bilanciare la dieta? Alla sera dobbiamo prendere ispirazione dal menù del mattino. Adesso arrivano anche i consigli dell'Accademia Americana di Pediatria che raccomandano poche bevande gasate, poche dolci, attenzione ai cibi ipercalorici. Ci darà due dritte dopo i mercati per iniziare subito con il piede giusto o con la forchetta e il coltello giusti, no? A tra poco. Cuore e denari. Nel salotto buono non ci si può azzuffare! Questa sono io, che me la cavo. Faccio pagare! Anche loro se la cavano. Scendete dal divano, Vincent, giù! Ho detto, scendete giù dal divano! Ce la caviamo tutti. Smettetela di urlare! Non stiamo urlando, tu urli. Non è che solo sul divano stai giù, non mettere i piedi sul divano, attenzione che cadi, ma anche a tavola a volte iniziano proprio delle vere e proprie battaglie. Bambini che decidono di mangiare quello che vogliono, vogliono solo alcuni tipi di alimenti, la classica pizza, la torta al cioccolato, bevanda gasata. La dottoressa Lucilla Titta c'ha già i capelli dritti in piedi. Dottoressa vorrebbe Titta. Vorrebbe, perché riccia, so che li vorrebbe lisci magari. Sì, ci sono, si torna a scuola, si torna al nido, si torna alla scuola materna e torna naturalmente il problema del bambino che magari non gradisce la mensa dell'asilo, e allora iniziano i tentativi da parte della mamma di rinforzare un po' magari la colazione, la merendina, e poi alla fine si fa un gran pasticcio. Ci dà tre dritte semplici che possiamo seguire per iniziare bene. Allora, la prima cosa che mi sento di dire ai genitori, soprattutto, che sono quelli preoccupati in queste situazioni, è di fidarsi. Questa è la prima cosa, fidatevi della gestione della ristorazione nei nidi e nella materna, che è controllatissima, viene fatta in collaborazione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione delle ASL di zona. C'è uno studio, diciamo, dei menù dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista della sicurezza alimentare, quindi fidarsi innanzitutto, perché poi i bambini lo sentono. C'è un effetto molto positivo, anche voglio dire riconosciuto, rispetto proprio all'atteggiamento del bambino verso il cibo quando si trova nella comunità, e quindi quando vede anche gli altri bambini che mangiano. E spesso bambini che non mangiano determinati alimenti a casa li mangiano al nido e alla materna, o spesso li trovano migliori di quelli che mangiano a casa. Quindi bisogna assolutamente tranquilli, non muoiono di fame, nessuno li avvelena. Assolutamente no. E crescono poi chiedere belli e sani. Agli educatori, non ai bambini, ma chiedere agli educatori e alle educatrici che cosa hanno mangiato i bambini, questo è lecito, è previsto, e quindi regolarsi poi di conseguenza durante la giornata. Però non partire, diciamo, col piede sbagliato pensando che i bambini mangiano male o non mangiano. La cena, dottoressa Titta, la costruiamo il menù serale un pochino sulla base, per completare e equilibrare quello che i bambini hanno già mangiato a pranzo all'asilo. È una buona idea, naturalmente gli asili forniscono un piano settimanale del menù, e quindi anche quando noi andiamo a fare la spesa, tra l'altro se avete dubbi sulla spesa andate sulle pagine di Cuore Denari, perché ovvio, ci sono ricette. Mi pare il minimo sindacale, vero? Sì, ma in realtà è sempre una questione di proteine, no? Perché le fonti di carboidrati sono più o meno sempre le stesse, le verdure, la frutta di stagione, è sempre una questione di far, diciamo, ruotare le fonti di proteine. Quindi se i bambini hanno mangiato pesce o carne a mezzogiorno, magari proporre dei legumi o delle uova o del formaggio fresco la sera, e il gioco e è fatto. E ricordatevi del consiglio della dottoressa Titta: le verdure si sgranocchiano, lo possono fare anche i bambini. Adesso se non ancora abbiamo nel mercato, abbiamo ancora tante offerte, che così il problema ce lo siamo già tolto. Brava, mi vengono sempre in mente prima, anche nei nidi danno la frutta a metà mattina e non al pasto, quindi è già una cosa, un'abitudine, un'educazione che fanno già alla scuola dell'infanzia. No, mi veniva da ridere pensando ai miei nipoti, che ovviamente va de retro verdura, ma sgranocchiano un sacco di carote, mi sembrano proprio dei coniglietti, quindi mia sorella risolve quantomeno con quello, è poco altro purtroppo, però insomma pian piano li sta riportando sulla retta via. Grazie dottoressa Titta, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Manu ci racconta, hai visto, strafortunata, bimbi di 4 e 2 anni, anche sull'alimentazione punta questo messaggio, dice: si sono ammalati solo una volta, fino ad ora, nonostante siano entrati entrambi al nido dal sesto mese di vita. Sarà perché anche d'inverno siamo fuori. Alimentazione senza zucchero, pochi latticini e carne, ma molta frutta e verdura. Costo alto, 450 per nido più 130 per materna, ma siamo felici. Sono e siamo felici, anche infatti. La felicità dei bambini rassicura le mamme. Dottoressa Trinci, c'era rimasto in sospeso gemelle insieme nella stessa classe o separata? Anche i messaggi, sì. Guardi, anche qui davvero non c'è una regola precisa. Molti genitori li tengono insieme, continuano a tenere insieme i gemellini per comodità, perché magari la mattina presto portarne uno a un nido, uno a un altro, diventa non facile. Sicuramente in una visione così un po' tipica dell'essere gemelli, l'idea di metterli in due strutture diverse fa sì che un bambino crei più un suo gruppo e quindi li distacchi maggiormente. Più recentemente si pensa che invece si possono anche favorire questi rapporti di attaccamento fra i due gemellini, e successivamente questi bambini troveranno poi prenderanno la loro strada. Una posizione intermedia, che poi è sempre quella migliore, è che magari la struttura può essere anche la stessa, e poi sono gli educatori che cercano, in relazione a quelle che sono le indole dei bambini, di differenziare. Se una fa per esempio il gruppo del teatro, l'altra fa il gruppo della narrazione, uno fa pittura, uno fa coltivare il giardino, insomma, ecco, differenziare, certo, non fare diversificare. Niente, è un termine che va bene per tutte le stagioni, tutte le salse. Andiamo a sentire alcuni ascoltatori. Volentierissimo. Continuate, allora, a chiamarci, superate la barriera rosa, perché a noi piace chi è in vacanza, quindi oggi le barriere hanno un altro nome, ci saranno Nicole, Sabrina, non so bene chi ci sia, non ne abbiamo salutate, però è sempre rosa, perché sì, sì, è tutta rosa. 800 24 00 24, in questa nuova versione di Cuore Denari che comincia alle 10:30, e noi siamo contenti di avere la vostra compagnia, i vostri contributi. Invece è azzurro il colore delle telefonate che arrivano, perché adesso ci sono due papà. Alberto da Como, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza, perché io ho avuto 4 figli in 5 anni senza gemelli, quindi ogni 22. Ma che bravo! No, brava anche la, più che lui la moglie, perché insomma, sì, adesso senza togliere nulla da lei, Alberto, ma. No, beh, io facevo la parte, diciamo, di quello che si è divertito. Abbiamo ben chiaro la parte che ha fatto lei. Qualche notte di sonno l'avrà persa anche lui. Alberto, allora, quindi aveva un nido casalingo praticamente. Quindi avevo il nido casalingo, perché fortunatamente in questa situazione uno dietro l'altro si facevano compagnia fra di loro, però comunque sono riusciti a farsi quasi tutti 4 anni poi di scuola materna. E le dico, quel distacco affettivo di cui si parlava prima è stata una terapia molto valida, l'abbiamo applicata subito noi, perché per evitare gelosie, evitare situazioni critiche. In effetti adesso i miei figli, guardi, ormai il grande c'ha 20 anni, ma già a 6 anni andavano con gli oratori da soli, andavano a dormire a casa di altri senza problemi. Che bella famiglia, dai. E sono maturati, vedo poi uno dopo l'altro hanno acquisito dal precedente. E certo. Il primo ha avuto magari un po' più di difficoltà, il primo apre la strada, il secondo lo guarda, va un pochino più sicuro, l'ultimo il terzo mette i vestiti degli altri due, ecco, per cui, insomma, e il quarto nasce, come si dice, già imparato. Esatto, della serie, sul primo controllavamo tutto quello che mangiava, l'ultimo invece prendeva pure quello che trovava per terra, insomma, cose che si sentono in famiglie numerose. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto anche Eugenia da Venezia, ma volevo presentarvi anche il nostro prossimo ospite, perché prima Contina Napoli di Cittadinanza Attiva abbiamo fatto fatto riferimento a quelle iniziative imprenditoriali che nascono proprio dalle esigenze dei giovani genitori che fanno fatica a trovare una sistemazione tradizionale con l'asilo nido. Un ascoltatore da Bologna ci dice 530 euro al mese, non ce l'ho fatta e quindi ho dovuto ritirare il bambino dal nido. La stessa gestione di un asilo nido tradizionale nel privato può essere un'esperienza imprenditoriale, però sì, magari sulla quale possono cimentarsi in molti, ma non è che sia priva di difficoltà. E attenzione, parliamo anche di questo con il nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio Alberto Sbeghen, responsabile del progetto asilinido.biz. Buongiorno dottor Sbeghen, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questo è un sito che ci aiuta a trovare le strutture più vicine a noi e che ci aiuta appunto a scegliere. Voi intanto all'800 24 00 24 raccontateci come sta andando la vostra ricerca, se la state facendo adesso, magari per l'anno prossimo, no? Perché chi avrà già scelto evidentemente avrà utilizzato dei criteri oltre alla retta da pagare, magari la prossimità rispetto alla propria abitazione o anche rispetto magari al posto di lavoro, no? A che tipo di strutture vi siete rivolti? Allora, Sbeghen, asilinido.biz, come funziona? Che servizio offre? Allora, asilinido.biz è il portale web di riferimento per il settore della prima infanzia che raccoglie le schede di centinaia di asili sparsi un po' per tutta la penisola. E il portale in sostanza aiuta l'utente, ovvero le famiglie che devono individuare il nido per il proprio figlio, di fare appunto una ricerca e una selezione della struttura. E in sostanza il portale presenta per ogni struttura una scheda completa con informazioni generali, foto degli ambienti interni ed esterni, testi che spiegano le attività svolte e le peculiarità proprie di ogni servizio. Quindi questi sono poi gli aspetti più importanti che valutate, che individuate come termini di confronto. Poi ci saranno anche gli orari di apertura, i prezzi e le rette, come dicevo prima. Ci sono anche delle foto delle strutture, sono importanti anche queste per avere una visualizzazione. Sì, tramite le foto i genitori possono, insomma, a colpo d'occhio capire subito come sono organizzati gli ambienti e soprattutto capire quella che è la qualità del servizio offerto. Un po' quasi un comparatore di offerte, no? Come tra l'altro, come allestite poi le informazioni che mettete sul sito? Andate ad intervistare direttamente i responsabili delle strutture? Che come fate, Sbeghen? Beh, abbiamo un contatto diretto con ogni cliente, per cui è il cliente che ci passa la documentazione da inserire nel portale, e non facciamo una visita diretta perché sarebbe un po' troppo complicato. Certamente, farla su tutto il territorio. Ci facciamo passare, sì, tutte. Senta, le informazioni. Quali sono, sulla base anche delle informazioni che veicolate e che animano un po' il traffico sul vostro sito, le informazioni più ricercate da parte dei vostri utenti, dei genitori, e magari vi mandano anche delle richieste specifiche? Insomma, come si muove questo mondo secondo il vostro osservatorio speciale? Allora, i genitori sono molto interessati soprattutto ai servizi offerti, per cui se ad esempio il nido ha un giardino esterno, piuttosto che se ha una mensa interna o si appoggia ad un catering esterno, per cui quelli che sono tutti i servizi offerti dalla struttura sono sicuramente valutati con attenzione dai genitori. Quindi questo è il criterio di ricerca, ecco, certamente. Importante. Ultima domanda, parlavamo prima di iniziative imprenditoriali. Allestire, strutturarsi con un nido privato è difficile, è facile? Secondo lei può essere un'avventura professionale nella quale cimentarsi o è meglio lasciar perdere? Oddio, diciamo che i margini non sono così alti. Infatti quello che ci sentiamo dire molto spesso da chi intraprende un'attività di questo tipo è che appunto alla fine del mese si tira fuori ben poco, cioè le spese sono tante, il personale, soprattutto mi capita di spesa del personale qualificato, certo. Esatto. Per cui sì, molto spesso appunto può essere, insomma, un'attività non semplice, ecco, da gestire. Però, insomma, magari se si ha la vocazione è una strada anche da tentare. Grazie ad Alberto Sbeghen, ne segnalo ancora il progetto, ormai è un portale ben strutturato, asilinido.biz, il comparatore dei nidi e delle materne. Dottoressa Trinci, ci impresti un po' il suo occhio esperto per scegliere il nido e la scuola materna adatta al nostro bambino? Da che cosa si parte? Quali sono proprio le mosse fondamentali? Dove deve cadere l'occhio? Dove possiamo mettere il cuore? Dunque, sicuramente direi sugli educatori e sulla struttura, perché una scuola da privilegiare è sicuramente, per esempio, una scuola con spazi all'aperto. Questo facilita poi, no, la vita del bambino, il rapporto con la natura, il movimento. Quindi tra una scuola dell'infanzia al chiuso, una scuola dell'infanzia o un nido all'aperto, io sceglierei sicuramente quello che offre spazi esterni validi. Che poi lo spazio non è, anche come è costruito uno spazio, c'è proprio tutta una filosofia. Per esempio la Toscana, ben sappiamo, insieme all'Emilia Romagna, anche parte della Lombardia, ha un'attenzione particolare anche alla pedagogia del buon gusto proprio, perché se uno entra in una scuola o un nido dove è tutto asettico, è chiaro che il bambino non vive poi in una maniera empatica, perché la vita mentale di un bambino è fatta anche di questo, è fatta del godimento estetico che i bambini hanno, peraltro sembra in una maniera quasi congenita. Sì. Quindi per esempio una bella struttura dove insieme ai mobili dell'IKEA ci sono anche una maglia del contadino, ecco, so, facilita anche la continuità fra casa e scuola, quindi non ambienti rarefatti o assolutamente anonimi, però proprio un ambiente dove il bambino può trovarsi come a casa. E poi chiaramente la formazione degli educatori, io credo, come dicevano anche i colleghi della parte dei denari, che però mi sembra anche che faccia parte della parte dei cuori, informarsi dettagliatamente su chi e come seguirà il proprio bambino. Poi certamente ci sono gli incerti, c'è l'epifania dell'incontro, alcune volte sì, alcune volte no, però nella norma davvero ora il personale è tutto laureato, quindi i controlli anche nei servizi, insomma, privati. Possiamo affrontare questo primo distacco con tutte le garanzie, con tutte, infatti, molto tranquillamente, ma i messaggi che arrivano tanti, sono assolutamente sì, positivi, di esperienze belle, insomma un po' di fatica magari all'inizio, ma poi il bambino ci manda dei messaggi e subito il cuore dei genitori si rallegra. Questo cordone bisogna staccarlo tanto prima o poi, lo dici quindi a me. Infatti, tu ce ne hai uno all'anno, guarda i cordoni da staccare. Allora, noi invece andiamo a sentire che cosa succede sulle sì, strade, poi e poi torniamo insieme. Altre testimonianze, domande, tanti domande sui bambini che si ammalano. 800 24 0024, preparatevi. Cuore e denari. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di chiamarci, il nostro numero verde 800 24 0024 per condividere con noi timore, paure, apprensioni, ma anche buone esperienze, inserimenti andati a buon fine. E devo dire che le telefonate certo non mancano, ah, i contributi. Guarda, abbiamo proprio azzeccato l'argomento del giorno, direi. Dove andiamo? Allora andrei ad Eugenia da Venezia, perché è la responsabile di un asilo nido comunale, quindi abbiamo un'ulteriore voce questa mattina a completamento di tutto il ragionamento che abbiamo fatto, quello dalla parte dell'offerta. Eugenia, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è l'esperienza di Venezia, la sua, insomma, quante ne vogliono queste mamme e questi papà? In realtà c'è serenità in questo frangente del distacco legato all'inserimento, Eugenia? C'è molta emozione in ecco, questo momento. La parola giusta è questa, emozione. Si scatenano un po' le ansie, le domande delle mamme, ma come dicevate giustamente voi, quando poi il bambino serenamente viene in un luogo dove può alla fine giocare liberamente, può giocare con un sacco di colore, può certo, sporcare liberamente, può rotolarsi per terra, alla tutto, fine tutto fila liscio, tutto funziona alla fine, sì. Io chiamo da Spinea in realtà, quindi dalla provincia di Venezia, sì, perché altrimenti facciamo sempre la gloria della grande città, ma anche in provincia succedono delle belle cose. Fatto bene Eugenia a ricordarle, comunità un po' più piccole, magari più facilmente gestibili, certo. Sì, noi siamo una cooperativa, cooperativa CSSA, che gestisce l'asilo nido comunale in appalto, e stiamo cercando di un po' reinventarci la realtà del nido e sì, di trasformarlo da asilo nido a centro servizi per la genitorialità, quindi per i genitori. Un nido che sia aperto alla comunità, dialogante con la comunità, che impari dai genitori, impari con i genitori. Un posto dove cresciamo insieme, educatori, bambini e genitori. Ci reinventiamo una cultura dell'infanzia e della genitorialità. Lo facciamo attraverso incontri sì, di formazione, workshop, ma anche a livello di libero scambio. Di ma grazie di per aver segnalato questa bella esperienza. Auguri, in bocca al lupo, e ogni tanto aggiornateci anche sulle nostre pagine. E complimenti per lo spirito esatto di iniziativa, anche di intraprendenza, che non sempre viene riconosciuto anche agli insegnanti, no, in questo ambito. Allora, abbiamo lasciato l'argomento un pochino più spinoso sì, in chiusura. Intanto saluto la nostra esperta, la professoressa Susanna Esposito. Buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti. Direttore dell'unità di pediatria ad alta intensità di cura del Policlinico dell'Università degli Studi di Milano. Professoressa Esposito, lei lo sa, iscriviamo i bambini al nido o alla scuola materna. La preoccupazione che si ammalino, che stiano più a casa che al nido, sono tante. Ci si mettono naturalmente anche i consigli di zie, nonne. Attenzione, voglio leggerle subito anche un sms che è arrivato, perché vuole sapere il nostro, la nostra ascoltatrice, il suo parere. La pediatra della nipotina ha detto alla mamma che se fosse intenzionata a mandarla al nido era assolutamente necessario vaccinarla contro il meningococco B, e ci chiede i vostri esperti che ne pensano. Allora le giro subito questa domanda e poi le chiederei di dare qualche regola per i genitori all'ascolto. Sicuramente. E come giustamente ha sottolineato l'ascoltatrice, la prevenzione è estremamente importante per chi inizia a frequentare l'asilo nido e per chi frequenta comunque l'asilo nido, perché si tratta appunto di un contesto in cui bambini nei primi anni di vita restano all'interno di strutture di dimensioni relativamente contenute, e avendo i bambini nei primi anni di vita un sistema immunitario più così possiamo chiamarlo vergine, tendono ad ammalarsi con più frequenza e soprattutto a fronte dell'incontro con un agente infettivo a presentare delle manifestazioni cliniche più rilevanti rispetto a quanto succede quando l'incontro avviene più avanti negli anni, in quanto il nostro sistema immunitario ha a quel punto una memoria immunologica. Questa prevenzione può essere in un certo senso aspecifica, e quindi ad esempio il lavaggio nasale regolare anche quando il bambino non è raffreddato con soluzione fisiologica permette di evitare che i bambini siano colonizzati da batteri e virus di cui possono essere portatori sani e poi a un certo punto per motivazioni varie possono causare malattia nel bambino stesso e comunque essere trasmessi appunto all'interno della comunità dei bambini che frequentano l'asilo, e poi naturalmente con le vaccinazioni. In merito alle vaccinazioni è importante per tutti i bambini che entrano nell'asilo nido controllare che il calendario vaccinale sia stato eseguito secondo quanto raccomandato, e quindi con le vaccinazioni esavalente e pneumococco nel primo anno di vita, perché se non fosse stata eseguita la vaccinazione antipneumococcica può essere eseguita in una fase successiva. L'antimorbillo per otite rosolia, per cui nel secondo anno di vita è prevista una dose. In una serie di regioni in cui è prevista anche l'antivaricella, controllare che sia stata eseguita o se no pensare comunque alla vaccinazione antivaricella, e certamente tra le vaccinazioni raccomandate non incluse nel piano, la vaccinazione antinfluenzale risulta essere molto utile in età pediatrica, e anche comunque l'antimeningococco B è indubbiamente un'opportunità in più nel prevenire una patologia sicuramente più rara, ma che naturalmente può associarsi ad elevata mortalità o comunque a complicanze permanenti. Per cui sono assolutamente favorevole a una logica di prevenzione allargata, proprio per far sì che i bambini che frequentano l'asilo non si ammalino in continuazione, ma riescano a frequentarlo in serenità. Professoressa Esposito, torneremo naturalmente su questo tema. L'importante è tosse, otiti, febbre, influenza. Quando il bambino si ammala bisogna avere cura di, prima di mandarlo nuovamente al nido e all'asilo, che sia guarito. Certamente, ricordiamoci che dopo l'infezione vi è una sorta di situazione di immunodepressione che soprattutto nei primi anni di vita, proprio per la verginità del sistema immunitario, può durare anche un paio di settimane. Inoltre non dimentichiamoci che a fronte di un'infezione virale, lo shedding virale, quindi l'eliminazione del virus, persiste per 7-10 giorni, quindi abitualmente dopo una patologia infettiva acuta è importante una fase di convalescenza che si assesti almeno sui 7-10 giorni da quando la febbre è scomparsa. Tante volte questi tempi non coincidono con le esigenze della famiglia. Quasi mai direi. Allora, però, ringraziamo la professoressa Esposito per essere stata con noi, così la salutiamo. Certamente. Tornerà a trovarci presto, grazie. Ricordiamo grazie il titolo. Grazie mille a tutti voi. Grazie dottoressa, professoressa Esposito, il libro della dottoressa Trinci, vogliamo ricordare. La giusta fatica di crescere. Questa è una fatica giusta per crescere, quella di andare al nido, alla scuola materna. Dottoressa Trinci, scritto con il pediatra Paolo Sarti, edito da Feltrinelli. Dottoressa Trinci, grazie. Grazie a voi e belle cose a tutti. Grazie. Ottimo. Anche a lei. E buon inserimento a tutti, soprattutto a chi lo sta facendo proprio in questi giorni e soprattutto anche a chi è un po' polemico. Abbiamo notato anche questi messaggi, naturalmente. C'è una piccola scuola di Lodi, ci segnalava una mamma che chiede un inserimento che dura 3 settimane, molto graduale, e lei non ha più permessi da prendere al lavoro, quindi un po' di responsabilità. Dai, vado io a fare un po' di inserimento con suo bambino. Andiamo, dai, col suo bambino. Andrea Roccabelli, regia la parte tecnica, che voglio ringraziare già da qualche giorno, ma poi i minuti scappano. Isotta Scenna e Marco Lombardo, che sono ritornati in pista con noi. Noi ci ritroviamo domani alle 10.30 senza di te. Io invece ci sono con il tema di cuore e anche con il ritorno di Investire Informati. A domani.